piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Siccome siamo a Paperissima, presentatore TV, attore di teatro, showman, il pubblico lo conosce e lo ama così. Ma Marco Columbro da molti anni è anche uno studioso di esoterismo, di spiritualità, di medicina alternativa e si è appassionato all'ufologia grazie anche ad un'esperienza molto particolare. Sì, è accaduto nel 99 a New York. Andai con un gruppo di amici a seguire una conferenza di Hannah Hayes, che è una contattista, e all'uscita, noi eravamo 150 persone, in questo rettangolo di cielo newyorkese, no? Perché sai, c'hai i grattacieli alti. E io chiesi a Anna, mi puoi fare un autografo? Yes, of course. E poi guardando in alto vedi una sfera lattiginosa che entrava in questo rettangolo, un'altra e un'altra ancora, formarono un triangolo perfetto e cominciarono a ruotare. Io dissi, Anna, Luca, tu guarda, lei invece, sì, lo so, sono loro che stanno salutando, non rompere, lo so benissimo, capito? Però era normalissimo, noi rimaremmo esterrefatti, fecero 4-5 giri e poi si allontanarono uno a uno, ruppero questa formazione e sparirono. Chissà perché gli esseri umani che hanno l'avventura, il privilegio nel corso della loro avventura esistenziale di essere lambiti dalla fama, a un certo punto entrano nella fase mistica. La fase mistica non necessariamente corrisponde all'abbracciare un culto religioso riconosciuto, ma corrisponde anche a vagamente entrare in contatto con aree dell'esistenza imponderabili, improbabili e non verificabili. Questo è accaduto a tantissimi personaggi. Cito Paolo Brosio, noto personaggio fantasista giornalista, che a un certo punto rimane fulminato sulla via di Medjugorje. Claudia Cole, nota icona callipigia, responsabile di calo di diottrie per varie generazioni, anche lei improvvisamente si fa suora. Altri personaggi, vagamente come, non so, Red Ronnie, è diventato un medico alternativo, Eleonora Brigliadori, è diventata una sommelier della propria pipì, insomma, ci sono varie derive. Tra le tante derive, le analizziamo come fenomeno sociologico, c'è quella di Marco Columbro. Non ricordo bene, facevamo un programma ai tempi in cui eravamo tutti giovani e non avevamo i capelli bianchi, nelle reti Mediaset, nel fulgore della seconda metà degli anni Ottanta, poi non so, aveva venduto un po' di materassi, poi ogni tanto entra e esce, ma insomma è tra le persone che vivono in un momento di assenza, di carenza, di fama, di luce riflessa, e Columbro immediatamente risolve, è riuscito a riconquistarsi una visibilità e un'autorità dicendo cose che poi non sono nemmeno così originali, ma fanno riflettere. Ha scelto un altro filone del neomisticismo più laterale rispetto alle folgorazioni, ai padri Pia, alle madonne, agli abbracciare le fedi religiose, a diventare buddisti, a meditare, a fare le diete, a diventare vegani, a dire che i vaccini fanno diventare tutti autistici, a curarsi facendosi grandi bevute di pipì, tutte queste cose qua che sono nell'lecito esercizio della propria fanta spiritualità. Columbro si è specializzato nel settore alieni, ma questo sarebbe poco per dire che vede gli UFO, è ben poca roba. Appartiene a un sottogenere delle persone che comunque dicono di avere delle certezze dell'esistenza di altre civiltà, altre etnie, per dire razze brutto, extraterrestri. Si è specializzato nel sottosettore che attribuisce agli alieni tutte le cosmogonie che hanno illuminato l'umanità dall'origine ai giorni nostri. Quindi alieni erano quelli che vengono graffiti nelle caverne a bordo di astronavi, alieni erano quelli che in certi bassorilievi inca andavano a loro volta a bordo di astronavi, alieni erano gli egizi naturalmente. Stargate, su questo ha creato una saga televisiva e cinematografica. Con lo Stargate si entra in un'altra dimensione in cui la civiltà aliena erano gli antichi egizi, sì, con la testa di cane come il dio Anubi, con le piramidi, insomma gli egiziani altro non sono che alieni, quindi le piramidi sono una sorta di sistema di controllo con civiltà che stanno lontane. Ma andando più avanti, a me mi capitò negli anni Ottanta, già facevo questo mestiere, di andare in una regione italiana in cui c'era un mistico che aveva stimmate, sanguinava, faceva di tutto, era convintissimo, parlava anche lui naturalmente con la Madonna, con Gesù Cristo, con tutti i santi del paradiso, perché ne parlava, perché erano semplicemente degli alieni. Anche loro, nella loro, diciamo, nel loro appalesamento agli umani, altro non erano che alieni, scende anche l'astronave, la gente pensava di vedere la Madonna e Gesù Cristo, ma erano alieni, c'erano l'astronave, non avevano la forza spirituale, altro non era che tecnologia avanzatissima. Ecco, questo è il filone ripreso da Marco Columbo. Gesù era un alieno, il Papa lo sa e non lo dice, quindi c'è anche il fatto del complotto, e dobbiamo renderci conto, noi tutti o voi tutti, che vi pregate, volete salvarvi l'anima, andate nelle chiese, pensate a un riferimento spirituale, immaginate una vita eterna, no? Ragazzi, tutt'al più potrebbe capitarvi di finire nel pianeta da cui vengono appunto tutti, e trovate lì San Pietro, San Giovanni, Giuda, tutti lì stanno lì con il loro scafando perché sono alieni, erano venuti sulla Terra. Io non ho prove, non ho certezza né che sia vero che non sia vero, però sottopongo oggi al mio pubblico questa sorta di ipotesi. Cosa fareste voi se realmente tutto ciò in cui avete creduto, che vi ho fatto riferimento, voi che avete una fede, voi che fate una pratica religiosa, che siete buoni, corretti, giusti, vi astenete, non vi toccate, fate tutte queste cose qua che alla fine erano tutti alieni e quindi avremmo perso tutto il nostro tempo. 800240024. Ma perché sarebbero qui? Io credo sia una volontà multipla. Da un lato c'è la volontà di farci prendere consapevolezza che non siamo gli unici a abitare questo condominio, la nostra galassia. È talmente grande che sarebbe come fare un condominio di 700 piani e una famiglia sola. Ci vogliono quindi dire: amici, non siete soli, siamo anche noi e siamo fratelli. Secondo, voglio metterci in guardia dalla strada che stiamo intraprendendo, una strada che se portata avanti in modo discriminato può portare all'autodistruzione, e questo nessuna entità che ha raggiunto il livello spirituale elevato vuole che un pianeta si autodistrugga, perché vuol dire rompere un equilibrio cosmico che deve rimanere così com'è. Ci faremo anche molte domande. Perché se sono tanto potenti, tanto avanzati rispetto a noi, giocano a nascondino, stanno lì nascosti, ci sono, non ci sono, cucù, scendano nelle piazze delle maggiori città d'Italia, come accade nei film catastrofisti, e dicano: siamo gli alieni, noi vi spieghiamo tutto, quello che siete voi, che non siete voi, perché stanno nascosti, perché usano questi sistemi, perché lo dicono al Papa e non lo dicono, non lo so, a Alessandro Chiappini, a Fabrizio Intonti. Il Papa lo sa perché non lo dice. Qual è il problema? A un certo punto basta cambiare i punti di riferimento. Ora, di tutte le persone che studiano, approfondiscono, parlano, fanno convegni, sembrano persone visionarie di questi argomenti, ce n'è una che ne parla con cognizione di causa, perché è anche uno studioso, è un traduttore ebraico-biblico, lavora con le edizioni di San Paolo, ha un progetto editoriale, quindi le edizioni di San Paolo sono quelle comunque dei Paolini, comunque sono nell'alveo Sacra Romana Chiesa, quindi non è considerato un Marco Columbo che si sveglia da un giorno all'altro e dice che Gesù è un alieno, una persona che ha studiato anche lui un suo punto di vista, una sua lettura, proprio leggendo i testi sacri, rispetto alla possibilità che noi siamo, abbiamo parlato altre volte, la sorta di un esito di un esperimento genetico. Anche noi veniamo da posti lontani, evidentemente quello che noi chiamiamo Big Bang o creazione altro non è che una sorta di risultato di ingegneria genetica. Mauro Biglino, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. L'ho introdotta nella maniera giusta, che potrei preso dalla foga sì, columbresca. Devo precisare che non lavoro più per le edizioni San Paolo, ho tradotto 17 libri dell'Antico Testamento, ma in questo momento ovviamente non lavoro più. Ah, l'hanno come scomunicata per diciamo le sue visioni eterodosse? Scomunicato no, comunque. Beh, però gli hanno detto: attento, non dire queste cose. Beh, sì, anche qualcosetta di più di attento, ma comunque lasciamo stare. Cioè anatemi, maledizioni, indiavolamenti, queste cose qua? Vabbè, insomma, ma è normale. Non sì, però lei, mi faccia capire, voglio capire veramente la sua storia. Una certa scelta, sapevo quali potevano essere le reazioni, quindi non c'è problema. Lei fino a un certo punto la sua vita è stato considerato un onesto, stimato, attento biblista, quindi traduttore di testi sacri, esegeta di testi sacri. Da un certo punto in poi ha cominciato a uscire dalla retta via, a dare delle interpretazioni. Esatto. Quando è accaduto questo? Nel 2010. Vabbè, recente allora, fino al 2010 andava bene, poteva andare bene. Sì, esattamente. Adesso, giustamente, ma li capisco, ci mancherebbe. Beh, vorrei vedere. Ovviamente non vado più bene, ma non tanto perché parli di alieni, perché questa è l'ultima parte del mio lavoro ed è un qualcosa di cui parlo quando mi viene fatta la domanda esplicita, perché io ho già scritto decine di volte sui social, eccetera, che per me, che gli Elohim biblici, perché poi di questo si parla, no? Questo termine biblico plurale che viene tradotto con Dio al singolare, che gli Elohim biblici fossero alieni, fossero il rimasuglio di una civiltà antecedente, fossero, come dicono molti, quelli che abitano nella terra K. A me non interessa, cioè per me non mi cambia di una virgola il mio lavoro. Io tra l'altro in vita mia non ho mai visto neanche una lucina in cielo, quindi non posso neanche dire, pur vivendo sotto la montagna che gli ufologi considerano una delle montagne ufologiche per eccellenza, io non ho mai visto nulla in vita mia, la mia Dove famiglia... Sta? In provincia di Torino, Torino. Musinè, famoso Musinè, molto sacro. Da un secolo, Giuditta Dembeck scrisse tanti libri sul Musinè, me la ricordo, una volta la conoscevo, una signora torinese ha scritto tantissimi Musinè, sì, ci va la gente ancora la sera. Io non ho mai visto nulla, neanche una lucina. Ma vero, ci sono processioni sul Musinè di gente che va lì, ci sono i sei, c'è una specie di stele nel Musinè. Dove... Esatto. Io sul Musinè ci sono andato non so quante volte perché... Quando ero giovane facevo le ultramaratone, cioè le corse a piedi, lei ci ha dato 100 chilometri, il Musinè era uno dei miei allenamenti. E comunque proprio per la salita che presenta, eccetera. Quindi ci sono andato decine e decine di volte. Lei in sintesi cosa dice? Che in realtà la creazione, il mysterium tremendum, come dice Rudolf Otto, in realtà altro non è che una spiegazione banalmente legata a quella che è la percezione che abbiamo noi della scienza, che a un certo punto, da un'altra dimensione, un'altra realtà, una sorta di spore biologiche hanno creato quella che noi chiamiamo vita nel nostro paese. Sì, guardi, senta, qui però bisogna distinguere una cosa. Un conto è quando si parla di creazione intesa come l'origine del tutto. Questa non la conosce nessuno. Quindi questa è libera ovviamente per la ricerca scientifica ed è libera per gli uomini di fede. Ognuno può dire quello che vuole. Ah, su questo non ci piove. Ecco, esattamente. Quindi ognuno poi avrà le sue convinzioni. Parlando di invece testi antichi e nella fattispecie di Antico Testamento, devo dire che quel libro non si occupa di quella creazione. Cioè la Bibbia, intesa come Antico Testamento, non si occupa della creazione dell'universo. Sto studiando testi di teologia ebraica pubblicati da case editrici ebraiche come la casa editrice Mamash, eccetera, dove loro scrivono tranquillamente che la Bibbia è il racconto del patto di alleanza fatto con Israele. E Israele, tra l'altro, significa una famiglia, non tutto il popolo ebraico, significa la famiglia di Giacobbe. È la storia di una famiglia e del suo rapporto con Dio. Non è il racconto della creazione di monti, di mari, di niente, è il racconto dell'inizio della famiglia di Israele. E quindi la Bibbia proprio non si occupa di questo. Ma mi spiega una cosa, è la mia curiosità, e questo testimonia il mio candore e la mia ignoranza. Com'è un testo così specifico che nasceva per descrivere il rapporto fra l'assoluto, il divino e una particolare parte di umanità diventato considerato un testo universale che racconta la storia del mondo e di tutti gli uomini? Ecco, allora qui dovrei farne la storia del cristianesimo, però velocemente, in sintesi, chi è stato che a un certo punto ha detto questa roba? Allora è tutto iniziato con Paolo. San Paolo, che ha elaborato la figura cristica, sì, partendo dal Cristo, cioè partendo da questo rabbi giudeo predicatore messianista, l'ha trasformato. L'esseno Gesù Cristo, che a un certo punto è diventato il Messia. Esattamente, il Messia di tutti, attenzione, perché se lui era un Mashiach, cioè un Messia ebreo, era il Messia di Israele, con i compiti specifici del messianismo previsto appunto all'interno del popolo di Israele. Poi è stato fatto diventare il figlio del Dio universale, cosa che nei Vangeli non c'è, e da quel momento in avanti, siccome a quel personaggio bisognava dare una radice, e la radice è stata ovviamente l'Antico Testamento, essendo Paolo ovviamente... Vabbè, e qui abbiamo capito, allora, un testo sacro che è di pertinenza a una realtà ben circoscritta, ben definita, per una serie di vicende, la storia questo fa spesso, diventa un testo universale. Esatto. E racconta, è per tutti, diciamo, è il testo sacro che definisce, racconta, la risposta a tutte le domande, se uno vuole. Gli uomini hanno esatto. bisogno di testi che danno del tutorial dell'assoluto. Gli uomini l'umanità hanno sempre, ha bisogno di questo. Sempre, l'umanità non può vivere senza religione. E quindi ha avuto la sua funzione. In tutto questo, dove comincia l'aspetto eretico, l'apostasia di Biglino, dove comincia? A un certo punto, studiando, trova questa figura degli Elohim nella Bibbia, alle radici proprio testuali della Bibbia. Come l'ortodossia come spiega l'Elohim? Cos'è l'Elohim? Allora, l'Elohim per l'ortodossia è Dio, inequivocabilmente Dio. Dio. Invece io nei libri documento come Elohim intanto siano tanti. Gli dèi, erano gli dèi, non il Dio. Diciamo gli dèi. Quindi ecco, il monoteismo è una cosa che siamo inventati in seguito. Esattamente. Diciamo che questi qui, preferisco chiamarli questi qui, perché chiamarli dei è fuorviante, perché poi noi subito abbiamo l'idea del Dio spirituale trascendente. Siccome questi qui erano carne ed ossa, io ho difficoltà a chiamarli Dio. E allora questi qui erano tanti, la Bibbia ne nomina diversi, li distingue chiaramente dagli Adam, cioè gli Adam intendiamo l'umanità genericamente. Le creature, noi, le creature. Invece per la Bibbia gli Adamiti erano un gruppo molto particolare, ma fa niente, non entriamo nel merito perché non ce la facciamo, non è compito neanche di questa trasmissione. Allora, quindi gli Elohim erano tanti. Per questo io dico, chiunque essi fossero, l'importante secondo me è smettere di dire che erano Dio. Dopodiché Dio esiste, benissimo, Dio esiste, ma figuriamoci se io lo metto in dubbio. Per mettere in dubbio una cosa del genere, io dovrei avere la certezza che non esiste, ma io non ho certezze. Nessuna. Il pregiudizio è un pregiudizio appunto. Altrettanto forte come diciamo l'integralismo religioso, il pregiudizio esatto. laicista. Credi in Dio stupido. Pensi un po', io ho molti nemici tra gli atei. Certo. Proprio perché appunto io non sapendo. Toglie, non posso toglie sacralità decisione. All'ateismo. Sembra un controsenso. Sì, anche questo. Ecco, detto questo, gli Elohim a questo punto. Mi dica se la mia lettura è troppo rozza e raffazzonata. Sono come una sorta di avanzatissimi scienziati e gli adamiti, cioè noi, siamo il frutto del loro esperimento di laboratorio. Gli adamiti in particolare sì. Sì. Gli adamiti in particolare sì, perché bisogna anche qui. L'Antico Testamento, quando parla della fabbricazione degli adamiti, non parla della creazione dell'uomo sulla terra. Mm. Ma parla di un gruppo specifico che tra l'altro con tutta una serie di insomma calcoli abbastanza precisi diciamo, quell'evento lì va collocato intorno al 4500 avanti Cristo. Ma nemmeno tanto, nemmeno relativo tanto agli adamiti, attenzione, nemmeno tanto, nemmeno tanto lontano. L'umanità esisteva già. Beh, ovviamente. Diciamo, noi già 20 milioni di anni fa camminavamo, quindi. Esatto. Infatti la Bibbia parla degli adamiti, anche qui è un'altra delle cose sulle quali bisogna essere chiari, cioè così come la Bibbia non si occupa della creazione dell'universo, non si occupa neppure della, tra virgolette, creazione dell'uomo inteso come tale. La Bibbia parla degli adamiti. Ma no, mi scusi, cioè Biglino. Una velocissima domanda, poi mi risponde fra 30 secondi, devo mandare una piccola pausa. Okay. Quando la Cabala, che è una corrente, diciamo, misteriosa e esoterica all'interno dell'ebraismo, tira fuori, è caro perché è una figura che ha ispirato tutta la mia vita, che Rabbi Lev, con una formula cabalistica, dà vita a un golem, cioè all'Adamo rozzo, ripercorreva semplicemente l'opera che questi Elohim avevano fatto in un laboratorio, hanno provato a fare degli ometti. Lui ci ha provato con un colosso d'argilla nel ghetto di Praga, il ghetto di Praga, e gli è andata male perché non c'è riuscito, non aveva lo strumento fino in fondo. Rifletta su questo, mi risponde fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. I rettiliani sono una razza aliena che si è evoluta milioni di anni fa, probabilmente dai dinosauri. Sono alti circa 2,80 m e hanno la pelle ricoperta da scaglie che la fa sembrare perennemente umida e traslucida. Hanno occhi che possono cambiare colore, e la loro pupille sono verticali. Nelle adduzioni i rettiliani agiscono manipolando il tempo, spesso causano paralisi all'addotto, il quale riesce persino a percepire il loro respiro pesante e rumoroso. Sono inoltre una di quelle razze che impianta le loro memorie aliene negli addotti. Sostanzialmente sarebbe il backup di un alieno defunto, che per mantenersi in un certo senso in vita viene impiantato nel cervello di un addotto. Diventa portatore così di entità. Confermo che anch'io sono rettiliano, questo è il respiro pesante, me l'hanno anche detto che forse è un rettiliano. O i rettiliani vedono la loro caratteristica in rete, perché poi tutte queste cose in rete hanno un'esplosione fantastica, ricercano foto di personaggi famosi, ministri, capi di Stato, anche cantanti, attori, e analizzano la pupilla e alcuni tratti del viso per identificare quali loro in realtà ci sia sotto un rettiliano. Anche a me mi hanno accusato di essere rettiliano, cioè il rettiliano si è impossessato di me, mi ha fatto il download del software di un rettiliano morto, quelli umidicci con la pelle che sembrano delle salamandre, e dentro di me c'è la salamandrona che mi muove e che mi agisce. Questa è un'altra ipotesi. Lupo, buongiorno. Buongiorno. Sì, Lupo, l'ascolto. Allora, sentendo la vostra emissione mi sono ricordata una bella storia che... Allora, sono rumeno, provengo dalla Romania. La storia che l'ho sentito è che Gesù è frutto tra un alieno e una donna della terra. Sì. Perciò il Dio sarebbe l'estraterrestro. I figli del cielo scesero e sposarono le figlie degli uomini e vengono... E si vede che si è accoppiato con una della terra. Siamo venuti fuori noi. È venuto fuori Gesù, che ha anche, diciamo, le capacità che del suo padre. I superpoteri provengono proprio di là. Sa, Lupo, lei potrebbe pensare di dire una cosa che la gente scandalizza, ma la sua tesi, visto che parliamo di qualcosa che non ha verifica, non c'è un'evidenza, allo stesso valore di un altro mi dice no, il contrario per me va bene. Poi c'è la dignità di una professione religiosa che abbraccia molte persone, è una grande idea condivisa da tante persone che meritano rispetto nelle loro più intime convinzioni. Poi quello che dice è Lupo, quello senza dubbio, io ve l'ho detto proprio per quello, ve l'ho detto che sono rumeno perché sono nato, cresciuto come ateo, perché lo sapete, lo sapete tutti che in Romania quei anni voi diciamo la vostra specialità sono i vampiri, non, con gli alieni c'è poco a che fare. Sì. È un altro settore, ne parleremo altre volte. Agostino. Salve, dunque io vorrei sottolineare alcune cose un po' particolari della Bibbia, per esempio il libro di Ezechiele in cui vengono menzionati i cosiddetti cherubini. Sì. Leggerli con i nostri occhi sembrano la descrizione di elicotteri, no? Oppure quando si parla della potenza. Perché come di sono Dio, fatti i cherubini? Con tutte le ali che girano? Come, le come delle ruote che girano, esatto. Sì, la descrizione è veramente incredibile. Un'altra cosa molto sconcertante è quando si parla della gloria di Dio, no? Sì. Che viene con la sua potenza. Ecco, letto nei termini moderni, la gloria sembrerebbe essere proprio la descrizione del rumore che farebbe un'astronave. Scendendo con i suoi motori, no? Cioè il boato, roveto, sì, incendiato, è diciamo il gas di scarico di un'astronave che atterra. Il roveto prende fuoco perché atterra l'astronave. Mauro Biglino, riprendiamo con Mauro Biglino, che è un biblista che però a un certo punto della sua vita ha cominciato a dare un'interpretazione della Bibbia che non è quella ortodossa, che in realtà la Bibbia è semplicemente il racconto di entità che vengono sulla terra e creano l'uomo. Della considerazione del nostro ascoltatore cosa dice lei, Biglino? Allora, guardi, le cito gli studi del professor Luigi Moraldi, sì, pubblicati da UTED, che è considerato l'esperto degli esperti, il quale lui si occupa ovviamente anche degli apocrifi dell'Antico, certo, Testamento, dove dice per esempio che quando i cherubini si fermano, negli accampamenti degli Elohim cessa il vento. È perché sono le palle dell'elicottero e non girano più. Un po', lo scrive il professor Luigi Moraldi. Quindi i cherubini erano degli elicotteristi praticamente. Leggendo la Bibbia lo so che può non piacere, però allora il discorso è questo. Se noi dobbiamo credere ad un libro, no, perché la religione chiede questo, io dico per prima cosa leggiamolo. E poi un libro può essere interpretato ovviamente in tanti modi diversi, ci sono varie chiavi di lettura, vari livelli di lettura, ma una che non può mancare è la lettura letterale, perché noi sentiamo raccontare la Bibbia, ma non la leggiamo. Invece l'ascoltatore di prima evidentemente l'ha letta. non la leggiamo e quindi sentiamo raccontare la Bibbia e ci viene detto che i cherubini sono questi spiriti angelici. No, nella Bibbia non sono così. Dopodiché, se li si vuole interpretare così, ma per carità, sì, noi immaginiamo non sono così. Queste letture tarde, questi paffutelli bambinocci che sembrano... Beh, lì poi siamo oltre i confini della fantasia. Che sembrano delle gallerie per pedofili, a vedere delle gallerie di rappresentazioni sacre, capito? Cioè, capito, poverini, concordo. Fanno anche tenerezza immaginarli lì, sempre fra vecchioni. Non c'è nulla, è una lettura tardissima questa, non so se controriformista, non so quando è venuto, come sono cominciati ad apparire questi bei puttini. Sì, tutti no, lei tenga presente che agli angeli come entità spirituali le ali sono state date intorno al IV secolo d.C. Poi invece la lettura a cui si riferisce lei è ancora più tarda, quindi si immagini un po'. Sì, vabbè, gli angeli ci piace vederli con le ali, evidentemente non c'è bisogno delle ali come un grande uccellone per superare le categorie fisiche. Quindi da questo punto di vista, ritorniamo al punto rispetto alle letture fantasiose senza una documentazione così stretta. Lei interpreta alla chiave di quello che oggi sono degli strumenti di lettura filtrati dal nostro progresso tecnologico. È chiaro che prima non esistevano gli elicotteri, non esisteva la possibilità di volare, nessuno pensava a questo. Ecco, da questo, le letture invece fatte in maniera un pochino più arraffazzonata, come dire, ha detto mio cugino che Gesù è un alieno, ecco, è diciamo la scrematura e la vulgata rispetto a questo studio profondo, che secondo me non è soltanto lei a farlo, anche gli esegeti biblici qualche domandina se la fanno, anche se non lo dicono, o sbaglio? Sì, certo. Guardi, lei prima dell'interruzione mi aveva fatto una domanda. Sul golem. Ecco, esattamente. La risposta alla domanda che lei mi ha fatto è sì. Era il tentativo di riprodurre. Guardi, ci sono per esempio dei siti di consulenza ebraica dove i loro più importanti esegeti che scrivono in quei siti dicono che la Bibbia parli di ingegneria genetica. Gli ebrei lo sanno da sempre, anche attraverso il Talmud. Noi sappiamo che per molti ebrei il Talmud è più importante della Bibbia, cosa peraltro anche, come dire, potrebbe teoricamente anche essere... Però scusi, Biglino, se la realtà è costruita su numeri, è esattamente quello che oggi è il codice binario, crea tutto, è una sequenza matematica che crea l'oggetto. Sì. Fatto, nel senso che però anche lì non bisogna mai dimenticare, quando si parla di questo testo in particolare, si parla di un testo scritto da un popolo, o meglio dei discendenti di una famiglia, che intendeva parlare di se stesso e del rapporto che aveva con uno degli Elohim. Un altro importantissimo esegeta ebreo, che è Manuel Tov, scrive chiaramente che quando la Bibbia parla di Elion, El e Yahweh, parla di tre individui diversi, e invece la tradizione li ha uniti nell'unica figura del Dio, ovviamente per creare il monoteismo. Ma Emmanuel Tov lo scrive tranquillamente, parla di tre individui diversi, quindi Elion difatti nella Bibbia è rappresentato come il capo degli Elohim, il comandante. Quindi erano, diciamo, personaggi con competenze diverse, e agli occhi diciamo della tribù di Abramo erano dei superpoteri, ma in realtà uno era un ingegnere e uno era un biologo. È un termine fantascientifico, nel senso avevano dei poteri più alti rispetto ovviamente alle popolazioni di quel tempo. Avevano la tecnologia, la tecnologia che oggi la consideriamo come pure semplice meccanica, all'ultimo rango rispetto a tutte le discipline metafisiche. In realtà, se legge la Bibbia e soprattutto l'esegeta biblico, il cabalista, quello che conosce veramente il potere di alcuni testi paralleli, sa che è tutta una composizione, i numeri che creano la realtà. I numeri che creano la realtà è la chiave della nostra tecnologia. Solo un istante, Biglino. Prego. Melog. Per capirci, Mauro Biglino, riassumo con estrema sintesi. Il Maral di Praga, Rabbi Lev, prende un pupazzo d'argilla, mette la formula magica, dovrebbe dargli la vita, per un po' si muove e crea un golem. Golem è Adamo prima del soffio divino. Quindi ci riesce fino a un certo punto, ma questo naturalmente viene male, l'esperimento viene male, e tutti gli apprendisti stregone, poi ci finisce sotto e ci finisce male. Ma in realtà... Nel libro in cui c'è scritto nella Bibbia della creazione di Adamo, Se lei volesse trasporlo in termini concreti, attuali, scientifici, che tipo di operazione avrebbe fatto quell'Elohim su Abramo? Su allora, Adamo? Sì, l'operazione che è stata fatta è stata quella di inserire, oppure quella che farei, diciamo così, quella di inserire una piccola percentuale di componenti, patrimonio genetico degli Elohim in quello che poteva essere o l'Homo erectus o l'Homo habilis, questo per fabbricare il Sapiens. Dopodiché gli adamiti rappresentano un ulteriore perfezionamento, tant'è. Quindi è abbastanza recente questa creazione dell'uomo come quella siamo. Quella degli adamiti, no? Appunto, infatti stavo per spiegare. Quella degli adamiti, come ho detto prima, è molto recente, tant'è che gli adamiti e solo gli adamiti, e quindi anche qui non bisogna confondersi, vivevano molto a lungo. Perché? Perché loro avevano componenti più alte di patrimonio genetico degli Elohim. Cioè un patrimonio genetico più nobile, ecco, un patrimonio genetico più nobile. Chiamiamolo più nobile. Fatto meglio, erano venuti meglio, ecco, è un modello più avanzato. Perfezionato. Una release più avanzata, più perfezionata rispetto agli altri. Esattamente. Che si sono estinti, infatti. Questo è quello che pare di capire. Vabbè, questo. Quindi, diciamo, la creazione di Eva è la stessa cosa alla fine. Tanto è che Eva, difatti, e qui c'è una cosa che è curiosissima, interessantissima, e che nei testi degli studiosi ebrei questa cosa qui è evidente, solo che ovviamente noi non li seguiamo perché noi abbiamo la nostra dottrina, insomma, ma Eva è stata fatta prendendo delle cellule dall'Adam. E quando a questo Adamo consegnano questa Eva, lui dice, questo è nelle Bibbie nostre, questa volta è osso delle mie ossa e carne dalla mia carne. Tant'è che gli ebrei che traducono le Bibbie in inglese traducono col termine che significa finalmente, cioè finalmente me ne avete data una giusta. E nella storia dell'esegesi ebraica c'è il fatto che prima ad Adamo sono state presentate altre femmine che a lui non piacevano. Cioè come una real doll gli hanno creato, questo sarebbe nella lettura, cioè finalmente mi avete dato una donna come la volevo io. Esattamente, e tengo presente che in quei testi di teologia ebraica è tosto come cosa c'è scritto, è bello pesante come concetto, mi perdoni, una cosa che io ho detto, che quando l'ho detto ovviamente mi sono saltati addosso tutto, pesantino. Adamo prima di avere Eva si univa con gli animali, e in questi testi di teologia ebraica c'è scritto che Adamo si univa con tutti gli animali perché prima di avere Eva non aveva la proibizione di farlo. La proibizione gli è stata data solo dopo che gli è stata fabbricata Eva. Beh, un sollievo per tutte le pecore, le capre, le galline del pollaio di Adamo. Perché questo era il compito degli adamiti. Che però, guardi, visto che stiamo dicendo cosa che normalmente accade in certe realtà agresti, è sempre accaduto e forse accadrà in tempo di isolamento, al di là della battuta... Chi conosce la vita delle campagne sì. Ci sta anche questo, capito? Quindi non ci si stupisce. No, io non mi stupisco di nulla. Ma non, guardi, questo vorrei ribadire il fatto che nel pieno rispetto, però le facciamo delle letture. Se così fosse, in realtà, a un certo punto, questa sorta, come nei film di fantascienza, accade. L'uomo bicentenario, che è una metafora, a un certo punto gli devo fare la donna bicentenaria, perché alla fine si stanca. Se ammesso sì. Adamo fosse... Quello che noi stiamo cercando di fare adesso, noi ci stiamo giocando adesso a fare il copia e incolla con il DNA. Sì, esatto. Noi vogliamo fare la stessa cosa. Ci è rimasto qualche rimasuglio nella nostra memoria profonda di questa possibilità di ricostruirci. E noi stiamo cercando di ricostruirci, lo facciamo a pezzi. Sono assolutamente d'accordo con lei. La mia, non lo so, poi è opinabile, capito. Stiamo cercando di fare la stessa cosa, perché sto... Il mito del golem è all'inizio di tutta la robotica, l'intelligenza artificiale, è l'uomo che cerca alla fine con le sue stesse mani di far quello che al momento accade soltanto attraverso un processo biologico di cui conosce molto poco, la vita, il mistero della vita. L'uomo diventa è laboratorio della riproduzione di se stesso. Questo non toglie la poesia e la leggerezza della metafisica, però se ragioniamo in termini attuali, quello che è per noi la scienza, dobbiamo fare questo ragionamento. Sì, esatto. Quindi gli alieni c'entrano fino a un certo punto, è la versione vulgata, diciamo, gli alieni, no? Diciamo... Allora, veniamo agli alieni, così almeno, cioè, visto che un po', insomma, siete partiti con questo ci tema, ci togliamo, no? Questo dente, sì. Esattamente. Allora, il mio metodo, quello dichiarato dal 2010, è: facciamo finta che, e allora sembrava una battuta, cioè chi lo sentiva pensava che fosse una battuta, in realtà per me invece era una considerazione estremamente seria. Facciamo finta che quando gli antichi ci scrivevano una cosa volessero dirci proprio quella, e vediamo che cosa ne viene fuori. Ora, i popoli di tutti i continenti della Terra ci dicono, nei loro vari racconti che noi definiamo miti, ovviamente, ci dicono che a fabbricare l'uomo sono stati degli individui venuti da altre parti e che loro chiamano, con i vari nomi, con le varie denominazioni, eccetera, chiamano i figli delle stelle. Allora io dico, se facciamo finta che sia vero, prendo atto di questo, poi ovviamente io non ho prove. Sì, è un mito ricorrente. Però c'è gente che gli antichi ci raccontano questo, tutto lì. Figli delle stelle, che era Alan Sorrenti, cantava i figli delle stelle. Sì, esatto, sì, ricordo bene. Sì, sì, rimani dalle figlie stelle. Noi guardiamo il cielo e pensiamo da lì venga qualcosa, guardiamo l'unica area sconfinata dei nostri punti di vista. Stanno chiamando tantissimi ascoltatori che parlano delle visioni aliene, degli UFO, tutte queste cose. Oggi ho voluto fare un percorso un po' diverso rispetto a quello che può diventare argomento spettacolare, divertente. Tutti possiamo chiamare Columbro, farlo parlare, darsi di gomito, dire guarda questo che matto. Esiste comunque nella lettura dell'origine sconosciuta dell'universo anche questa possibilità. Non è detto che questa sia la verità, ma chi ha la verità in mano non sta certo coi piedi su questa terra. Grazie Mauro Biglino, alla prossima.